Sport e Motori. Jenson Button saluta perché va a vincere il Gran Premio d'Ungheria. Una gara incredibile, segnata sprazzi di pioggia che hanno condizionato le strategie. Ci sono stati addirittura 5 pit stop per Hamilton e Webber. Ed eccolo qua, l'Ungaro Ring in corona, Jenson Button, e di questo parliamo oggi a Sport e Motori, redazione sportiva dell'estate al gran completo qui a Radio 24 con Carmelo Lauricella in regia, Laura Vanossi appunto in redazione, al microfono Dario Ricci. Dicevamo, vittoria di Jenson Button davanti a Vettel, poi Alonso al quarto podio consecutivo, Lewis Hamilton, Webber, Massa, classifica mondiale che vede Vettel che allunga quota 234, più 85 su Webber, 146 punti per Hamilton e 145 per Alonso, nell'ennesima gara del mondiale caratterizzata da sprazzi di pioggia, come sentivamo dalla telecronaca Rai. Eccleston prima del mondiale aveva detto che gli era venuta in mente l'idea quasi di volerle bagnare apposta, no? Queste piste del Circus Mondiale, non l'avesse mai detto, quasi quasi ci siamo come media. Già collegato con noi Mario Poltronieri per i commenti di giornata, però prima voglio farvi sentire i commenti dei protagonisti. Partiamo da Stefano Domenicali. Beh, è chiaro che è stata una corsa molto particolare all'inizio con tutto quello che è successo, ma bisogna accettarla così come è venuta. Il rammarico che potevamo probabilmente cogliere qualche cosina in più, ma ripeto, gara molto intensa, c'è stata una fase dove si poteva cadere nel tranello di entrare, siamo rimasti fuori lì, è evidente che è stata la chiave di lettura per recuperare i posti persi all'inizio, quindi sotto questo profilo dobbiamo essere soddisfatti. È chiaro che quando ci sono queste condizioni uno prova a darci il massimo, poi tra una riga bianca una sbavatura, ma questo è il bello delle corse, devo dire, gara, ripeto, molto intensa, perché non dimentichiamo anche Felipe quando è uscito, ha toccato, ha rovinato l'ala posteriore, quindi alla fine portiamo a casa un risultato soddisfacente. Risultato soddisfacente, dice Stefano Domenicali ai microfoni della Rai, intanto 349-238-6666 per i vostri sms. Direi molto meno soddisfatto Fernando Alonso, sentiamolo nella conferenza internazionale del dopogara. Purtroppo devo dire che la partenza non è andata così come avevo previsto, ed entrambe le Mercedes ci hanno superato proprio in partenza, quindi ho dovuto superare Michael, poi superare Rosberg per due volte, e dopodiché con i pit stop ci siamo trovati dietro anche Webber per circa metà gara, quindi dopodiché sì, sono riuscito a spingere, ho avuto finalmente un po' di spazio davanti a me, ero anche veloce, però nei primi 30 giri siamo stati dietro, ripeto, le Mercedes e dietro Mark, e quindi diciamo c'è un po' un problema a recuperare. Così Fernando Alonso. Allora Mario Poltronieri, io sto con Alonso, nel senso che oggi è vero che ha vinto Button, ma il vero vincitore è Vettel che si è messo in tasca il mondiale, o sbaglio? Sì, ciao Dario. Diciamo che la corsa si divide secondo me in due parti. La prima fase, in cui si identifica secondo me l'attuale scala dei valori, e cioè con questa pista, in queste condizioni, le McLaren sono leggermente superiori alle Red Bull e la Ferrari è ancora uno scalino sotto. Poi nell'evolversi della situazione è chiaro che sono emersi sia gli errori sia le abilità, ma diciamo l'insieme delle condizioni che hanno portato ancora una volta uno abile, non veloce come Hamilton, suo compagno di squadra, ma molto abile nel cogliere le situazioni difficili, che è Button. Alonso ha fatto il possibile, direi più di quello che si poteva pretendere da lui, perché è vero che ci sono state due sbavature, ma le hanno avuto tutte, se pensiamo che Hamilton è dovuto perfino passare dai box, quindi nel complesso è una gara che dal punto di vista della Ferrari non è così soddisfacente come si poteva sperare viste le due gare precedenti e le prove di questi giorni, però dall'andamento della gara si è avuta la conferma che, come dico, la scala dei valori di quelle tre squadre è più o meno questa, sono differenze minime, basta avere in ogni corso un pochettino di vantaggio ed ecco che subito si riesce a scavalcare l'avversario. Vettel è andato fortissimo, così come è andato fortissimo Alonso. Hamilton va molto forte, però ogni tanto fa i suoi errori, e come dico, Button è il più bravo in queste situazioni confuse a cogliere i risultati più positivi, in questo caso addirittura la sua sedicesima, se non sbaglio, vittoria. Sì, su 200 Gran Premi, tra l'altro proprio festeggiati. Infatti, oggi ci arriva una domanda via SMS. Mario, nel cambio errato di Hamilton è stato il pilota a comunicare la volontà di mettere le intermedie o è stato richiamato con decisione unilaterale dei box? Ecco, in quel caso sempre chi decide? Beh, dipende, in genere decide il box sulle indicazioni che dà il pilota, perché il pilota è quello che può dire come stanno le cose, il box cioè come si sente con la guida della macchina. Il box però ha la possibilità di sapere la situazione in pista, dove sono i suoi avversari, che cosa probabilmente stanno facendo o hanno appena fatto, e quindi cercare di richiamarlo nel momento per lui più favorevole, cioè dove perde il meno possibile rispetto agli avversari diretti e dove riesce ad avere le gomme più adatte nella seconda fase successiva della corsa, perché con tutti i cambi poi che ci sono stati è chiaro che parlare di strategia delle gomme diventa anche un po' difficile. Francamente io trovo che la gara è stata eccezionalmente divertente, anche perché le riprese erano molto molto belle. Però dal punto di vista squisitamente agonistico effettivamente è un grande caos. 88 sì. Pit stop oggi, Mario, se non è record poco ci manca. Sì, credo che sia record, ma del resto lo stesso ingegnere della Pirelli aveva detto ce ne saranno sicuramente 3, probabilmente anche 4. Come dico, questo rientra nella filosofia di Ecclestone, che ha detto qui bisogna fare in modo, tu ricordavi appunto, bisognerebbe bagnare la pista, e lui intanto ha cominciato a tirar fuori la soluzione, cambiamo le gomme, cioè facciamo fare delle gomme che non durano tanto. Cioè, dal punto di vista squisitamente razionale è un'ennesima negazione di quella che era la logica. Cioè abbiamo delle macchine che sono degli aeroplani rovesciati, abbiamo delle macchine che hanno delle gomme che non durano, cioè stiamo veramente, è un grande circo, non è una ricerca per l'automobile. Però al di là di queste polemiche che non interessano in questo momento, perché si sta parlando dell'evento appena concluso, diciamo che la gara è stata interessante. Come dico, la Ferrari oggi io credevo che fosse un pochettino meglio, ce l'ha fatta Alonso a prendere il podio, che è già molto, però nella realtà con quelle condizioni di pista si poteva intuire che la McLaren era un pochettino meglio. Ecco, ti chiedo, Vettel questo mondiale ce l'ha in tasca adesso, direi che è uscito abbastanza bene dalla buca in cui la Red Bull si era ficcata, merito anche forse dell'Hungaroring, dove il gran parte del lavoro, pur con queste nuove regole, lo fa il sabato, no? Quando riesce a piazzarti davanti agli avversari. Ma comunque Vettel è sempre fortissimo, cioè non è che perché oggi non ha vinto dobbiamo considerarlo ridimensionato, è sicuramente molto forte. Si tratta di vedere nel corso del tempo il confronto diretto con l'altro avversario molto forte che è Hamilton, il terzo, non nella scala di valori perché sono sullo stesso piano, che è quello più maturo e forse interpreta meglio la gara, che è Alonso, e poi questa, come si può dire, questo personaggio vagante che ogni tanto scompare, ogni tanto è in prima fila, vincitore, che è Button. Di altri grandi non ne vedrei. Massa ha fatto la sua solita corsa, se così si può dire, cioè va bene per un po', poi a un certo punto scompare, poi riappare, insomma non è un costante. Comunque la Ferrari, ma dici che è l'ultima vettura. Pensi che sia l'ultima stagione di Massa Maranello? No, se continua così, se al di là dei contratti, è quello che ha detto Montezemolo non più tardi, credo di 10 o 15 giorni sì, fa, era Massa confermato per il 2012, quindi potrebbe non accettare lui quel ruolo, però. Ma sai, anche lui matura. Tieni presente che Alonso è della stessa categoria di Schumi, che a suo tempo non voleva avere un compagno forte. Se prendono un avversario, si eliminano Massa per prendere un altro più bravo, fanno un dispetto ad Alonso. Alonso, certo. Tanto sa benissimo quali sono i propri limiti e conosce i limiti di Massa e di tutti gli altri, quindi lui corre per vincere il titolo. Il problema semmai è della Ferrari, che avrebbe bisogno di due piloti. Non dimentichiamoci che il vecchio Ferrari diceva: perché devo pagare due piloti di cui uno solo vincente? Questa era la filosofia di Ferrari, che poi è stata anche la filosofia degli inglesi. Solo che di tutti questi team, quello che è riuscito a trovare la combinazione migliore è appunto la McLaren, dove Hamilton ce la mette tutta. Button, se vince sorride, se non vince sorride lo stesso, è simpatico. Quindi gli basta guidare la Formula 1, insomma, tutto sommato si accontenta. Sì. Senti, cioè, arriva un'altra domanda da questo ascoltatore, che però non si firma, ragazzi, firmatevi, che è più bello, vi chiamiamo per nome, facciamo un'eccezione, la leggiamo per stavolta. Va: per la Renault e la sicurezza, non è meglio che siano cambiati i suoi scarichi prima che qualcuno si faccia male sul serio? Tu che ne pensi, Mario? Sì, beh, ma sì, è vero, però sono talmente tanti i particolari che andrebbero rivisti nelle macchine di oggi, che vuol dire fare cambiamenti enormi. Ormai mettiamoci il cuore in pace. La filosofia di questo periodo, stabilita dalla federazione, in realtà stabilita da Ecclestone e dal gruppo, diciamo, di controllo della Formula 1, è questa: ci facciamo ancora l'anno e turo, poi quando cambierà radicalmente la categoria col 1006 quattro cilindri, poi diventati sei cilindri perché Fontesemo non era contento, giustamente, e allora in quel momento vedremo come fare la macchina. Ma però è chiaro che tutti questi accorgimenti che vengono via via applicati hanno diciamo una giustificazione di fondo, che le macchine ormai sono a un tale livello che gli stacchi si misurano in millesimi. Allora una persona normale dice: benissimo, abbiamo raggiunto l'acme, il plafond, più di così non si può fare, cambiamo formula. Ma cambiare formula adesso comporta delle grandi spese, e io che sono malizioso dico comporta magari delle perdite di guadagno se si deve spendere di più. E allora restiamo con quello che siamo. La gara di oggi, secondo me, sia pure con una piccola delusione per il risultato della Ferrari, è stata comunque una gara molto divertente. È vero. Ammetto il suo che... compito l'ho assolto. Ammetto che ormai si fa fatica ad addormentarsi durante il Gran Premio, quindi questa è una vittoria di Ecclestone rispetto a quello che accadeva almeno fino a un paio d'anni fa, no Mario? Permettimi questa iperbole. Senti, ti rubo ancora un minuto e ti faccio sentire dalla 7 un passaggio della Superbike, perché siamo al Gran Premio d'Inghilterra, seconda manche a Silverstone. Ingresso, tra l'altro, è riuscito a tenere molto molto bene la corda nel passaggio precedente. È intanto Max Biaggi di nuovo davanti, sì. Marco Melandri, i due hanno perso 7 allora Biaggi e Melandri, quinta e sesta posizione in questa seconda manche, prima manche però che è stata vinta da Carlos Checa. Anche qui direi che il discorso mondiale va a chiudersi con pieno merito, perché c'è che ha fatto un inizio di stagione straordinario. Ma ecco, appunto, a me fa piacere soprattutto di vedere uno come Checa, che a un certo punto era stato, non dico emarginato, ma comunque lasciato in disparte nella MotoGP, e Melandri, che ha avuto anche lui dei problemi, e Biaggi, che voleva recuperare, ecco, sono riusciti, grazie al loro impegno e alla formula indovinata, a tornare ad essere dei protagonisti a tutto tondo. Non hanno niente in meno di quelli che noi vediamo poi nel MotoGP. Purtroppo oggi ci sono talmente tante manifestazioni che purtroppo bisogna fare delle scelte, e allora, siccome la Formula 1, così come la MotoGP, sanno fare più promozione per mille motivi che non è il caso di analizzare adesso, è chiaro che le altre categorie, che sono magari molto più divertenti, però non riescono a fare lo stesso, non conquistare lo stesso spazio nella comunicazione, anche se poi il pubblico c'è comunque che lo vede. Questa è senza dubbio una categoria che, come ricordo il mio amico Flammini, che tu forse non sai, ma è stato pilota della squadra Italia di Formula 2. Sì, lo so. No, a volte so che ti sorprendo. Senti, Mario, Superbike veramente divertente, tra l'altro quella di oggi di Checa, che attualmente è secondo dietro all'Averty, è stata anche la 300ª vittoria Ducati nel mondiale Superbike, tanto per far capire chi comanda. Ma ancora pochissimi secondi prima del traffico, giusto il tempo, Mario, per salutarti, darti appuntamento. Adesso c'è un po' una pausa tra Formula 1 e Moto Mondiale, ma a Ferragosto c'è il Gran Premio di Brno, quindi insomma, anche se vai al mare, mi raccomando, cellulare acceso, che potrebbe arrivarti la nostra chiamata. Perfetto, sempre acceso. Grazie a Mario. Grazie. Sport e motori. Questa è una vittoria voluta da tutta la squadra. Sono stati straordinari. Le loro individualità, fortissime, eccezionali. Abbiamo sopperito con la compattezza del gruppo, con l'atipicità del nostro gioco, con il cuore, con il coraggio. È stata una vittoria straordinaria della squadra. Abbiamo dimostrato, quando c'è compattezza, coesione, gli italiani non sono meno a nessuno. E beh, l'avete riconosciuta, la voce di Sandro Campagna, il grande condottiero di questo sette bello che ci ha regalato questa straordinaria emozione ieri ai Mondiali di Shanghai. Mondiali di Shanghai che si sono chiusi questa mattina con l'ennesimo oro di Ryan Lochte, che è il vero dominatore di questa rassegna, il clamoroso, direi, record sui 1500 stile libero di Sun Yang, che ha battuto addirittura quel record di Hackett che resisteva da Fukuoka 2001, vado a memoria. Tra l'altro i due, l'australiano e il cinese, condividono anche l'allenatore. Beh, se c'è però un Oscar che mi permetto di assegnare, quello al miglior commento televisivo natatorio, titolo tutto personale per carità, che però voglio assegnare alla coppia di nostri ospiti, coppia targata Eurosport, che mi hanno tenuto compagnia durante questi mondiali di Shanghai. E quindi intanto complimenti e grazie Gianmario Bonzi per essere nostro ospite. Ciao Dario e grazie a te e a tutti. Beh, Gianmario, concederà il fatto che inizi l'intervista da chi a stile libero va qualche decimo più veloce di entrambi noi due. Allora, Lorenzo Vismara, ben trovato, commentatore di Eurosport, ex bandiera del nostro nuoto, ex anche pallanotista. Lorenzo, a fine mondiale che ti rimane più in mente? L'oro del sette bello o i trionfi di Federica Pellegrini? Beh, ciao a tutti. Innanzitutto, il sette bello riesce a tornare ai suoi livelli dopo tantissimi anni di assenza, quindi il cuore giovanile mio rimane comunque pallanuotistico. Inevitabilmente quella è, secondo me, una tappa storica per il rilancio appunto di una nazionale che tanto aveva regalato e poi per tanti anni invece ha fatto soffrire con mancati risultati. Quindi questa è la pagina della pallanuoto che purtroppo nella mia carriera si è chiusa intorno ai 21-22 anni e poi si è aperta quella natatoria che è giunta appunto fino ai 33 anni, addirittura riuscendo a vestire la maglia di capitano azzurro. E indubbiamente, se devo fare un bilancio della mia vita sportiva, il nuoto rimane il mio sport numero uno. Beh, allora, visto questo Luca Dotto, direi che abbiamo già trovato un erede. Ah, molto più che un erede, perché finalmente un velocista riesce ad arrivare su un podio di quel livello, cosa che io non ero di fatto mai riuscito a fare, arrivando solo quarto alle Olimpiadi, poi dopo comunque un'altra dimensione. Un Luca Dotto che però non si ferma assolutamente a questo podio dei 50, perché comunque ha nuotato una stupenda finale della gara regina, i 100 stile libero, arrivando solo settimo tra virgolette, ma tutti vicinissimi, unico uomo imprendibile per il momento l'australiano Magnusson. Ma sicuramente Luca potrà a breve migliorare ancora tantissimo e probabilmente essere già protagonista nei 100 a Londra. Lorenzo, ti chiedo ancora, Ryan Lochte, il grande trionfatore di Shanghai 2011, battuto il record sui 200 misti, battuto più volte Michael Phelps, situazione che si può riproporre a Londra 2012, perché quello è poi il palcoscenico su cui Lochte deve ribadire questa superiorità. Beh, assolutamente sì, le gare si incrociano più volte durante il programma di questi due atleti fenomenali che sono, per disgrazia, di nello stesso qualche problema di collegamento con Lorenzo Vismara, che adesso andiamo subito a recuperare. Ma insomma, abbiamo Gianmario pronto a intervenire sullo stesso tema. Ecco Gianmario, pensi che Londra 2012 potrà essere l'Olimpiadi di Lochte, così come Pechino è stata quella di Phelps? Sinceramente non lo penso, ne abbiamo parlato tantissimo in telecronaca con Lorenzo, anche perché ce l'hanno chiesto molte volte gli ascoltatori. Il fatto è che Phelps ha cominciato a fare sul serio, ormai lo sanno tutti, negli ultimi 8 mesi, quindi con 8 mesi si è presentato a questo mondiale vincendo 4 medaglie d'oro, un argento e un bronzo. È vero, le ha prese davanti a livello individuale sia nei 200 stile che nei 200 misti, ma secondo me non era il Phelps al top e neanche vicino, neanche a un 90%, quindi secondo me si ribalterà la situazione. Certamente Lochte ha le possibilità comunque per dare fastidio a Phelps almeno in una o due gare individuali, però non credo che andrà a finire come è successo qua a Shanghai. Anche perché insomma immagino che Biederman sarà un po' più in forma, ci sarà anche Torpe in alcune gare, sarà veramente complicato portare a casa 8 ori come ha fatto Phelps a Pechino. Lorenzo, ancora una domanda, il futuro di Federica Pellegrini, l'abbiamo vista dominatrice, vincente, anche se in modo diverso, tralasciando per un attimo le querelle sentimentali, questo rapporto con Lucas invece, questo rapporto tutto professionale, come andrà a finire? Si riuscirà a portare il tecnico francese a Verona oppure? Beh, indubbiamente non si può considerare il rapporto Lucas senza tenere ben presente che ci sono 2 titoli mondiali, quindi 2 ori pesantissimi, perché confermano quelli di Roma che erano già fuori da ogni regola, con i costumoni galleggianti, 2 record del mondo, quindi pazzeschi. Qui si parte perlomeno per un biennio, quindi l'obiettivo di Luca è quello di portare Federica Pellegrini al 100% a Londra, quindi alle Olimpiadi, qui già a mezzo percorso con un programma d'allenamento più basato sul fondo, sulla resistenza e meno sulla velocità, è comunque riuscito a centrare gli obiettivi. Però c'è anche da dire che Federica tante volte, soprattutto anche qui durante i mondiali, ha detto che lei preferisce stare in Italia e quindi vuole stare il meno possibile a Parigi, dove comunque è giusto ricordarlo, Luca ha un altro gruppo di buon livello che però qui ai mondiali non ha fatto praticamente alcun risultato. Quindi se il tecnico vuole continuare a stare con Federica, che abbiamo imparato a conoscere essere abbastanza volubile, quindi che potrebbe essere anche in grado di cambiare nuovamente allenatore se lui le imponesse di venire a Parigi per tutta la stagione, quindi comunque non penso che Luca si faccia scappare l'occasione di guidare la miglior nuotatrice europea, sicuramente una comunque delle migliori nuotatrici al mondo in assoluto, comprendendo tutto il panorama delle gare, quindi penso che farà lui la valigetta questa volta e verrà magari qualche mese in più in Italia. Beh, insomma, è l'ora di mettersi, no, anche per il tecnico francese, visto il materiale umano e il potenziale che si ritrova per le mani. Lorenzo, 3 nomi dei 3 protagonisti di questi mondiali, almeno per quanto riguarda il nuoto in piscina, chiaramente. Beh, ce ne sono parecchi, perché si è visto delle cose veramente straordinarie. Ryan Lochte, uno su tutto, l'avete già detto, come non dirlo, il numero di medaglie vinte, il numero di ori parla di per sé stesso. Primo record del mondo abbattuto individuale, era stato lui anche in vasca corta ai mondiali di Dubai a fare la stessa cosa, quindi entra veramente nella storia. Poi record di Grand Hackett battuto dal padrone di casa Sun Yang, anche qui non si può non considerarlo, pur vincendo solo tra virgolette gli 800 e 1500, toppando invece clamorosamente la gara dei 400, quindi questi due sono assolutamente gli uomini di riferimento per il panorama maschile, mentre al femminile una giovanissima Franklin di 16 anni che ha già vinto 3 ore individuali più un bronzo, veramente candidata a essere la nuotatrice assolutamente del futuro, l'hanno già anche paragonata alla Phelps in gonnella, magari per il momento è un po' presto, però assolutamente un atleta che nel prossimo immediato futuro farà cose pazzesche e ne ha già fatte qui a Shanghai. Tanto per dire un numero, ha nuotato in prima frazione di staffetta 4x200 1,55 netto, cioè mezzo secondo meno di quanto ha nuotato Federica Pellegrini per vincere la finale. Quindi attenzione a questa ragazzina che l'anno prossimo avrà un anno in più, però già ormai un'esperienza stratosferica alle spalle e per quanto abbiamo visto noi nessuna pressione nel gestire le finali, anzi galvanizzata da ogni momento, l'hanno messa addirittura in ultima frazione nella staffetta 4x100, quindi grande fiducia da parte anche del team. Un'altra americana che secondo me è la più vittoriosa di questo panorama mondiale, Rebecca Soni, che ha dominato 100-200 rana, solo tra virgolette terza nella gara più veloce, che però nel programma olimpico non ci sarà, in quanto appunto i 50 ci sono solo a stile libero, e poi comunque anche staffette e tutto il resto, quindi rimane lei la donna più vincente di questi mondiali. Gianmario Bonzi, in 40 secondi invece, chi ti ha deluso? Beh, in generale sicuramente la Russia, che a livello di nuoto ha vinto solamente una medaglia d'oro, nuoto in corsia. Ci siamo lasciati dietro nel medagliere appunto del nuoto anche la Germania, e invece mi ha sorpreso tantissimo la Gran Bretagna, non solo per le medaglie ma perché ha piazzato tante persone, tanti nuotatori e nuotatrici nelle finali, e quindi a Londra saranno pericolosissimi. Eh sì, l'aria dei giochi londinesi già si comincia a sentire. Allora intanto grazie ancora e complimenti a Gianmario Bonzi e a Lorenzo Vismara per essere stati i nostri ospiti. Ciao a tutti. Grazie. E allora voltiamo pagina, abbiamo ancora un minuto, passiamo al calcio e sentiamo la voce di Gianpiero Gasperini, va. Tiago io conosco da tempo, io lo so che ogni tanto lui ha di queste cose, ma non le deve fare, perché lui è molto bravo, io ho grandissima fiducia su di lui, credo che sia un giocatore importante. Insomma, si capisce dal tono che questo Gasperini, che si è quasi ritrovato in modo casuale, ma sì, diciamolo, sulla panchina interista, ha invece ben chiaro gli obiettivi stagionali e ben saldo in mano il timone del gruppo, anche le decisioni che ha preso di lasciare gli argentini al riposo, salvo il richiamato all'ultimo momento Zanetti per la Supercoppa a Pechino del 6 agosto, richiamato il capitano solo per l'infortunio di Nagatomo. Insomma, un Gasperini che sembra ben saldo al timone, e oggi alle 17:30 a Dublino la sfida col Manchester City di Mario Balotelli in campo e Roberto Mancini in panchina sarà il primo banco di prova credibile. Staremo a vedere. Intanto grazie a Carmelo Lauricella in regia, a Laura Vanossi in redazione, un saluto da Dario Ricci. Sport e motori.